Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. La ronda padana. Ma cosa la ronda padana? Non siamo ancora i saluti, capo, siamo all'inizio. Allora. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da capo e un saluto da Drago. Ecco, adesso abbiamo esaurito i saluti e la parola adesso torna a me, giusto. Però io non so cosa dire, quindi cos'è? Scusa, per la legge della terza. Torniamo domani. Ma no, dai, perché non ti prepari, capo? Ma cosa devo fare? Ma siamo all'asilo, mi preparo per essere all'asilo. Ma per l'asilo sono preparato, dai, all'asilo. Sì. Allora, dai. Allora, vogliamo commentare senza dire cazzate il caso del bambino Lula e del bambino Cesare Battisti? Che roba da bambini, mica è roba d'asilo. Sei fuori strada, Drago. Roba Lula, Cesare Battisti, cos'è? Il bambino Battisti sta ottenendo, o ha ottenuto, non si capisce ancora bene, una specie di asilo politico dal Brasile, quindi sempre di asilo si tratta. Vabbè, allora diciamo che Lula ha avuto un atteggiamento degno del suo nome. Degno del suo nome? Cosa dici? Vabbè, uno si chiama Lula, cosa vuoi che faccia uno che si chiama Lula? Lula, vabbè, si vabbè chiama quanti Lula. Ne conosci che si chiamano Lula? No, un cane lupo conosco che si chiama Lula. E parte il cane lupo, conosco il presidente del Brasile. Vabbè. Uno che si chiama Lula fa delle cose strane, no? Ah, esuberanti. Sì. E quindi dipende tutto dal nome? Certo, scusa. Vabbè, non risulta però che Berlusconi sia un nome tanto strano. Eppure quello che si chiama Berlusconi fa delle cose esuberanti, strane, imprevedibili, no? Berlusconi è un nome tipico brianzolo, oppure ticinese, quindi niente di strano, mica Lula. Ma i nomi sono importanti, Drago. Prendi anche Cesare Battisti, ti sembrerà mica un nome normale. Vabbè, no, Cesare Battisti tanto normale come nome non lo è. Siamo davanti a un caso di sudditanza psicologica da nome. Cosa dici? Ma sì, tu pensa a un Lula qualsiasi che si trova davanti niente meno che Cesare Battisti. Vabbè, Lula contro Cesare Battisti. Tutto il Lula che c'è in Lula avverte il peso del confronto con quell'altro che si chiama Cesare Battisti. Vabbè. Il nome di un famoso patriota italiano del XIX secolo. No, cioè non può far finta di niente. Lula, Cesare Battisti. Sì, ma scusa, se uno si chiama Giuseppe Garibaldi o Napoleone Bonaparte, magari c'è qualcuno che si chiama ancora così. Giulio Cesare. Giulio Cesare, non è che lo trattano come il suo omonimo illustre, quindi cosa c'entra? Vabbè, ma in questo caso Cesare Battisti del XX secolo è abbastanza simile al Cesare Battisti del... No, perché ridi? No, vabbè, no. Cos'è? Dove è il risorgimento? Arrivare? No, voglio dire che insomma anche tutti e due fanno delle attività politiche clandestine. Vabbè, no? Sì. Uno le faceva, l'altro le fa. Adesso Lula, che si chiama come un cane lupo, femmina, si è confuso e non se l'è sentita di concedere l'estradizione. Insomma, si è confuso. Lei sta dicendo che è una questione un po' ad asilo Mariuccia, mi pare di capire. È una questione di... Sì, insomma, non è più... Sì. E ora, bambini, ricreazione! Pronto? Signora, signora, c'è Gildo? No, e allora chiamo dopo, può dire che ha chiamato Alberto? Sì, Alberto. Grazie. Signora, signora. Ma bambino Alberto, sempre con quel telefonino, dai. Vabbè, scusa, se ce l'ho, lo devo fare, tenemelo in tasca. Sì, però adesso secondo me stavi facendo finta di parlare con qualcuno. Non parlavi davvero. Perché? Perché eri al telefono con la madre di Gildo. E allora? Allora, Gildo è il tuo amico immaginario, quindi anche sua madre sarà immaginaria. Immaginaria. La vedeste dal vivo, la milfia. Ma come la milfia? La milfia? Signora milfia. È la mamma di Gildo, si chiama così. Ma che nome è? Ma chiedi a me, scusa, ma sua madre? Chiedetelo a Gildo. Vabbè, milfia. E sono milfia? Ogni tanto quando vado a chiamare Gildo, suono alla porta e lei mi apre e... è in accappatoio, no? Vabbè. Magari ha fatto la doccia e si capisce che non è immaginaria, no? Vabbè. Sì. L'immaginazione del bambino Alberto corre proprio forte forte. Vabbè, comunque facevi finta, Alberto. Comunque, ogni tanto faccio finta, in effetti. Ma perché lo fai, scusa? Vabbè, ma per far vedere che ho amici, no? Per contatti, no? Perché è importante fare una bella impressione, no? Coi compagni. Sì. Perché se ti vedono, cioè, più parli al telefono, più cresce la popolarità, perché tutti pensano, cosa c'è? Gente parla, quanti amici. Vabbè, ma dai, sono bambini. Ma vabbè, ma se fosse così, scusa, bambino Alberto, saremmo tutti popolari. Tutti oggi parliamo continuamente al telefono, quindi tu la popolarità. Cosa fai? Faccia? Cos'è? Ma no, volevo dire, è un'altra cosa, adulti e bambini, no? Ecco, spiegaci. Cioè, tra gli adulti ci sono tanti modi per essere popolari, no? Beh. Cioè, avere una bella macchina. Sì, vestirsi coi, come? Con le firme, avere un appartamento in centro di 1000 metri quadrati. Sì. Quella roba lì sono da adulti. Invece tra noi bambini che vige un'altra legge, diciamo. Vabbè, allora, già che ci sei, spiegaci in che cosa consiste questa legge che vige, insomma. Allora, diciamo che fino a poco tempo fa il parametro erano le figure, no? Le figure, la raccolta di figure. Le figurine, sì. I cacciatori. Sì. Cioè, per esempio, se tu avevi pizzaballa, no? Beh, se avevi pizzaballa, eri uno che contava, no? Perché è una figurara. Sì, ma una volta quando tu sei un bambino, poi scusa, oggi le figu non funzionano più, ci sono quelle dei Pokémon, magari non c'è pizza balla. No, ma c'è pizza ballemon. Sì, vabbè, ci sono ancora, però non fanno più tendenza, no? Ci sono altre priorità adesso. Sì, ma come fai a accorgerti che una cosa passa di moda e ne arriva un'altra? Io non capisco, Drago, quello. Cosa vuol dire? Lo senti nell'aria. Ma che aria? Ma Drago! Ma sì, è una cosa che c'è intorno, no? Non lo decide nessuno. Intorno a te, ma cosa state dicendo? Ma siete diventati tutti difficili. È così, cioè, non c'è nessuno che decide, no? Per esempio, adesso c'è la moda dei SUV, no? Dei SUV. Tutti col SUV. Non è che... I modellini, spero. Vabbè, certo, un bambino. Vabbè, anche tu ce l'hai il SUV, no? Il SUV anche di moda tra gli adulti. Come no? Eh no, io non posso avere il SUV. Ma scusate, i miei genitori li avete presente? Sì, i comunisti? Sì, e volete che loro mi comprino un modellino del SUV? Beh, no, Fanno anche in Romania adesso il SUV, un po' low cost. Vabbè. Però... Io ho già capito che tra poco ci sarà il momento dei modellini delle auto ibride, no? Beh, certo, questo c'è nell'aria da un po'. E allora i e voi genitori... potete ben capire che i miei genitori con l'auto ibrida vanno sul liscio, no? Quindi mi compreranno sto maledetto modellino. Non avrai bisogno di piantare grane, te lo compreranno di sicuro. Ma no, io l'ho già chiesto. E mi hanno detto sì subito, Ho capito, vabbè. No, senza neanche... Sì, sì, certo, come no, Alberto? Vabbè, ma tornando a quello che stavi facendo prima, bambino Alberto. Alla milfia. Ho capito. No, alla milfia. Parlare al telefono, far finta di parlare al telefono. Se tu fai finta di parlare al telefono, metti che una volta ti squilla il telefono mentre stai parlando, fai una figura di quelle veramente... Beh, questo in effetti non ci avevo pensato. Allora pensaci. Ma tanto, ma poi non mi chiama nessuno, perché in pratica faccio sempre finta, Cioè, io il cellulare potrei averlo o non averlo, che la mia vita non cambia, però per averlo ho lottato, No, perché c'è stato un tavolo di trattative con i miei genitori. Sì. Qui abbiamo ho giocato delle carte sensibili per loro. Autodeterminazione dei popoli, libertà individuale, pericolo pedofilia. Quello è stato decisivo. Vabbè, io direi che possiamo lasciare il bambino Alberto in questo mondo incomprensibile, un po' infantile, che per fortuna non è più il nostro, vero Kappa? No, io lo capisco il bambino Alberto. Ma deve far capisci? Vedere agli altri che è pieno di amici. Ma telefona, così almeno smettono di pensare che essere sia una pieno di amici. Sfigato, imbranato, timido, autistico. Cosa sono questi aggettivi? Imbranato, autistico, scontroso. Ma c'è un po' piano, Vabbè, ma se continui così a parlare al telefono, vedrai che poi la tua popolarità cresce e non ti considerano cosa? Drago! Vedi? Albenga, dai, ti sono al telefono! Una vera telefonata, dai, presto, pronto? Rispondi! Pronto? Ma no, qui non c'è nessuno Albertazzi! No, prego, si figuri! Sergio! Non era per me! Vabbè, ma che delusione! Cercavano un certo Albertazzi. Vabbè, ma Albertazzi sei tu? Sei tu, no? Ma quale Albertazzi? Sì. Ma bambino Albertazzi! No, Alberto senza azzi! Ma come? Hai detto una parolaccia, 50 cent di multa, L'ho ma sentito. Non ho detto nessuna parolaccia? Io l'ho sentita. E comunque io non mi chiamo Albertazzi o Albertosi o Albertini. Io mi chiamo solo e semplicemente Alberto. Capito? Alberto! A L B E R T O. A come autistico, L di lunatico, B di bambino come me, E come esagerato, R come rimbambito, T come te, e poi O come otranto, A di ansiolitico, L di lisergico, B come bunga bunga, bingo bongo bamba, E come elementare, se i nomi sono importanti sono a posto. Drago. Drago è un nome cognome. Che mi invidiano tutti. Vabbè, cognome. Si parla di cognomi, vabbè, nomi, cognomi. Non so di cosa vuoi parlare tu. Vabbè, i cognomi. Lula, quelle Lula. Cose lì. Okay. Drago, un nome che così mi invidiano tutti. Mi chiedono sempre un tuo nome d'arte, il tuo nome vero. Vabbè, anche il mio, K, non sanno mai come scriverlo. Cominciano a scrivere con la K e gli dicono K con la C. Mi guardano, punto interrogativo, gli parte la clessidra e non sanno cosa. K con la C, cioè C-A-P-P-A. Ma sbagliano, di nuovo con la K. Come con la C-A-P-P-A? Allora gli dico. Ma K. K come K del camino. E allora capiscono e lo scrivono giusto. Tutti più carini. sono arrivati un sacco di nananana sulla mail. Allora volevo leggerti il quello di Pietro da Verona che dice: la ronda padana. Vabbè, ma questo è troppo smaccatamente territoriale. Maria da Firenze. Sì. Vendiamo divani. Mandiamo il preventivo allora, chiedo asilo e tradio24.it per i divani. Sì.